batte, e le nemiche schiere d'uopo assalir. Servan gli orrori di campo agli empi alo di scorta. Senti turbe, preparo al meditato assalto.